emerge un calo delle presenze, emerge un calo degli sbarchi, del numero delle persone presenti in Italia in questo periodo, ma ciononostante, a differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, non cambia l'approccio, cioè rimaniamo ad un approccio emergenziale della gestione dell'accoglienza, invece di spostarci casualmente approfittando di numeri nettamente inferiori verso un'accoglienza ordinaria. In particolare questa accoglienza avviene in centri che si concentrano nelle grandi città. Sì, noi registriamo, grazie al lavoro della piattaforma e dell'analisi del rapporto, rileviamo anche un'accoglienza, diciamo, dal punto di vista geografico. Ci accorgiamo che le grandi città registrano, o meno quantomeno le città superiori a 200.000 abitanti, quasi oltre il 18% delle presenze al dicembre 2020, che nel 2018 era di circa il 14%. Quindi questo, l'osservazione che facciamo negli anni, ci ha permesso anche di avere degli approfondimenti geografici, quindi notare delle tendenze che sono variate. E a proposito di tendenze, stanno calando anche le risorse a disposizione degli enti gestori. Assolutamente sì, un'altra rilevazione che facciamo ha a che fare con i prezzi, nel senso che anche a seguito chiaramente di riforme, dei vari decreti intervenuti negli anni, le disponibilità di prezzi per i centri di accoglienza sono ridotti dai media nazionale, che era leggermente sotto i 35 euro, fino ai 25-60 alla fine del 2020. Questo impatta particolarmente per i centri più piccoli, che perdono circa il 27% rispetto a quelli più grandi, quindi questo ha un impatto proprio sulle strutture che non possono, diciamo, in qualche modo fare approfittare delle cosiddette economie di scala. Quindi, da tutte queste informazioni, qual è il quadro che emerge sull'accoglienza nel nostro paese? Il quadro che emerge è di un'accoglienza che continua a essere gestita in maniera emergenziale, quindi non si tratta di un approccio di una politica sociale, ma di una politica gestita dall'emergenza, in cui le prefetture, quindi i centri di accoglienza straordinaria, ovvero sia quelli gestiti dalle prefetture, gestiscono oltre il 70% delle strutture del territorio nazionale, con chiaramente una ricaduta in termini di capacità di coinvolgimento degli enti locali e della popolazione locale. Un altro aspetto estremamente rilevante per noi, che emerge anche dalle elaborazioni che abbiamo fatto, è che c'è una mancanza di trasparenza, una mancanza di informazioni. Noi da anni inseguiamo queste informazioni con accessi agli atti alle prefetture, al Ministero dell'Interno, che non ottempera gli obblighi di legge, che lo vedrebbe obbligato a presentare una relazione annuale sul sistema di accoglienza al Parlamento entro il 30 di giugno. Oggi siamo al febbraio del 2022, stiamo aspettando ancora quella del 2020, e dovrà essere presentata appunto ormai 7-8 mesi fa. Quindi c'è un vuoto informativo che stiamo cercando di colmare attraverso questo lavoro di analisi del rapporto, che appunto si chiama l'emergenza che non c'è per quest'anno, ma soprattutto la piattaforma centrivitale.it, che è l'unica a questo punto piattaforma disponibile per il sistema di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati in Italia, che permette tra l'altro di andare a un approfondimento fino al singolo centro. Quindi per esempio gli ascoltatori di Bologna potranno andare a osservare cosa avviene, cosa è avvenuto nel periodo 2018-2020 sul territorio di Bologna, che chiaramente sono dati che noi poi aggiorneremo nel corso dei prossimi anni, man mano che avanziamo con le richieste e le risposte da parte del Ministero. Su questo portale che tipo di informazioni si possono trovare? Sono informazioni riguardanti i numeri, tutti i centri quindi di accoglienza nel territorio nazionale, oppure osservati per comune, per singolo comune. Si possono osservare gli andamenti dei costi pro capiti al giorno, si può arrivare a un dettaglio di centri geolocalizzati, si può andare a guardare anche la tipologia di centro, quindi sul territorio si può andare a guardare anche la collocazione, quindi se si colloca in comuni, in aree polo, cintura, in aree periferiche. Possiamo lì anche leggere il numero delle presenze, il numero delle strutture, i posti disponibili, anche la percentuale dei posti disponibili rispetto agli abitanti. Quindi tutte informazioni che sono lì organizzate e classificate, ma che poi possono essere anche persino scaricate, quindi con dei fogli disponibili per permettere elaborazioni più specifiche e dettagliate, che noi a un livello più alto macro non riusciamo a fare.